Respiro. Responsabilità sociale, in inglese Corporate Social Responsibility, acronimo CSR, in due parole l'integrazione di preoccupazioni di natura etica all'interno della visione strategica di un'impresa. E quindi la scelta di gestire problematiche di impatto ambientale, sociale ed etico all'interno dell'impresa e nelle rispettive aree di attività. Di questo parliamo oggi in questa puntata di Respiro. Ben ritrovati da Laura Bettini. Vi abbiamo detto fin qui una serie di bellissime parole che però resterebbero lì senza un modello di gestione aziendale adeguato a raggiungere questi obiettivi. Come si fa? Beh, nel tempo sono nati vari standard a cui le aziende hanno fatto riferimento e col tempo si sono formati anche dei professionisti in grado di incamminare le imprese sul cammino della responsabilità sociale e di conseguenza poi sono arrivati anche degli enti specializzati nel certificare che gli obiettivi che ci si erano prefissati sono stati effettivamente raggiunti. Enti come DNV, Det Norske Veritas. Ambra Notari ha intervistato Vittore Marangon, amministratore delegato DNV Italia, proprio su questi argomenti. C'è un interesse particolare in questo momento relativamente alla salute e sicurezza dei lavoratori. Parecchie aziende, anche dalle ricerche che noi abbiamo fatto, ne abbiamo fatto una di recente con la Bocconi, ma anche dalle nostre attività di contatto quotidiano sul mercato, andiamo ad riscontrare questo tipo di esigenza e questo tipo di volontà di muoversi in questa direzione. Come pure l'ambito dell'ambiente, legato sia alla certificazione 14.000, ma anche ad aspetti più avanzati ed evoluti, che sono legati alla dimostrazione di quanto debba essere sempre minore l'impatto che l'azienda o anche il prodotto che l'azienda ha sull'ambiente in termini di emissioni. Da questo punto di vista è interessante verificare come la sostenibilità in genere si sta muovendo da una logica di governance a una logica di prodotto. Sempre più le aziende sono interessate a dimostrare che il loro prodotto è, tra virgolette, sostenibile e quindi che il loro prodotto, l'imballo, il prodotto stesso, ha un impatto sempre minore in termini di emissioni, in termini di CO2. Quindi un aspetto che va nell'ottica di comunicare da parte delle aziende questo elemento e che fa sì che poi sia anche un elemento importante nell'ottica della garanzia che l'azienda vuole avere relativamente al proprio brand. C'è da dire che poi i concetti di sostenibilità sono i più ampi, quindi non si parla sempre solo di CO2, ma c'è anche una sostenibilità nascosta. Per esempio, se lei prende gran parte della piccola azienda, delle piccole aziende, l'attenzione che queste piccole aziende hanno verso le risorse interne è un aspetto di sostenibilità ed è un aspetto importante dell'essere azienda e di garantire il profitto dell'azienda attraverso l'attenzione delle risorse. Ecco, forse sull'aspetto dell'ambiente si stanno facendo passi avanti, ma per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro di cui lei parlava, com'è la situazione in Italia? Sicuramente c'è sempre più una volontà da parte delle aziende di dotarsi di sistemi di gestione sulla sicurezza. Quello che riteniamo noi un aspetto importante è quello di far sì che si crei la cultura della sicurezza e che quindi si crei quella mentalità che va nell'ottica della prevenzione, quindi cercare di ragionare e far sì che basandosi un po' sulle campagne che sentiamo adesso nei media, si crei questa cultura. L'ambito della responsabilità sociale quindi è strettamente legato ormai all'economia. L'economia non può più ragionare pensando solo al mercato e tralasciando la responsabilità sociale. Secondo me assolutamente sì, nel senso che sempre più è importante che le aziende cerchino di capire quali sono gli interessi degli stakeholder e cerchino di ragionare in funzione di fare quelle azioni che vanno a dare risposte specifiche e equilibrate rispetto a tutti gli interessi degli stakeholder. E questo è sempre più imprescindibile per le aziende in funzione di definire quelle azioni preventive che fanno sì che l'azienda possa avere non un futuro prossimo, quindi far sì che l'azienda non esista solo domani, ma esista anche nel tempo. questa è la campana dei certificatori. Ora sentiamo la campana delle aziende, o meglio di alcune grandi aziende che hanno scelto la responsabilità sociale. Cominciamo da Edison. Edison è stata fondata nel 1884 e questo fa di lei la più antica società europea nel settore dell'energia. Oggi lavora nei settori dell'approvvigionamento, produzione e commercializzazione di energia elettrica, gas e olio grezzo. Alla domanda perché si entra nel campo della responsabilità sociale, rivolta sempre dalla nostra Ambra Notari, Francesca Magliulo, della Direzione Relazioni Esterne di Edison, ha risposto così, con sincerità. Ci sono tanti motivi, sappiamo bene che può essere un semplice moda, può essere ricerca di un ritorno d'immagine. Può essere invece nelle fasi più mature, in cui un'azienda invece ci crede veramente, una ricerca di dialogo con i propri cosiddetti stakeholder, cioè portatori di interessi dell'azienda. E in fin dei conti la responsabilità sociale non è solo una questione di reputazione, ma in fin dei conti è fondamentalmente prevenzione del rischio, oltre che dialogo e arricchimento reciproco. Monitorare gli umori, la percezione del pubblico, oppure semplicemente monitorare i propri impatti ambientali. Nel nostro caso, posso fare un esempio, la biodiversità, gli impatti delle nostre centrali sulla biodiversità è importantissimo, è meglio ovviamente prevenire che arrivare poi ai problemi. Oppure, c'è il nostro progetto in Egitto in cui sui diritti umani dei bambini e delle donne più vulnerabili, anche lì è importantissimo. Noi abbiamo ultimamente abbiamo aumentato la nostra presenza a livello internazionale, soprattutto in Egitto, e quindi i rapporti con la comunità locale sono fondamentali per un'azienda. Trovare una situazione, un tessuto sociale stabile è importantissimo nel momento in cui si deve gestire un'attività o delle operazioni per anni e anni. In fin dei conti è un'azienda conviene la responsabilità sociale, non è solo immagine, conviene anche dal punto di vista del business, perché la responsabilità sociale è fare il buon business, farlo in modo responsabile, non è semplicemente sponsorizzare un progetto piuttosto che un altro. Silvio De Girolamo invece è direttore Corporate Social Responsibility del gruppo Autogrill. Non c'è bisogno di spiegare chi è Autogrill. Abbiamo fatto partire un progetto che si chiama Future. Il progetto A Future ha identificato degli obiettivi di miglioramento che partono dal migliorare il contenitore, quindi dove noi svolgiamo l'attività operativa, fino ad occuparci anche dell'offerta commerciale e di tutto ciò che è necessario per far funzionare bene la nostra impresa. All'interno di questo progetto strategico di A Future ci siamo occupati, abbiamo già fatto partire, dei nuovi punti vendita sostenibili. Il primo è partito in provincia di Ravenna, a Mensa di Ravenna, dove abbiamo aperto un punto vendita di 400 metri quadri, dove abbiamo iniziato ad implementare energie alternative come la geotermia, che ci hanno consentito una diminuzione dei consumi superiore al 30%, e ovviamente questa cosa ci fa dire che l'esperimento ha avuto successo e che vogliamo replicarlo. Per replicarlo ovviamente abbiamo necessità che ci sia anche una compartecipazione dei concedenti autostradali e aeroportuali, ma ci stiamo ovviamente battendo per questo, perché fa sì che questo si consolidi. Il secondo esperimento che abbiamo fatto partire in giugno di quest'anno è in America, nel Delaware, anche lì un punto vendita ecosostenibile ed ecocompatibile, anche in quel caso abbiamo utilizzato l'energia geotermica. Se un'organizzazione ha una visione di lungo termine, vuol dire che deve occuparsi del tema dell'innovazione. Se si occupa del tema dell'innovazione, non può non occuparsi anche degli aspetti sostenibili che sono legati all'innovazione. È chiaro che legato alla sostenibilità c'è anche un tema reputazionale, c'è un tema reputazionale della nostra organizzazione nei confronti di tutti gli stakeholder. Così come altre organizzazioni, anche la nostra si sta interrogando di qual è il modo migliore per portare all'attenzione non solo della comunità finanziaria e io lo chiamo anche molto spesso in maniera, come dire, giocosa, il circo della CSR, quindi gli addetti ai lavori della CSR, ma anche in che modo poter far sì che invece i nostri consumatori possano conoscere queste cose, che poi sono i nostri principali stakeholder, perché noi riteniamo che oggi i nostri principali stakeholder sono i consumatori e i collaboratori. Tra l'altro nel nostro caso c'è un rapporto e una relazione diretta, quindi tra persone e persone, persone consumatori e persone collaboratori, che rappresenta l'anello di congiunzione tra la nostra organizzazione e i nostri consumatori. Infine Henkel. Henkel opera a livello mondiale con marchi arcinoti in tre settori: detergenza, cosmetica, adesivi e tecnologie. Guardate un po' in casa vostra e troverete un bel po' di flaconi e tubetti che portano questo marchio. Cecilia De Guarinoni è responsabile comunicazione Henkel Italia, sempre al microfono di Ambra Notari. Qualche esempio concreto, per esempio grazie alla nostra ricerca e sviluppo oggi i nostri shampoo, doccia, contengono il 65% di materie prime direttamente biodegradabili, oppure il 75% di ingredienti provenienti da fonti rinnovabili. Abbiamo ad esempio introdotto all'interno di tantissimi marchi della detergenza, nei flaconi in plastica, il 25% di plastica riciclata. Abbiamo recentemente lanciato sul mercato i concentrati, che hanno richiesto anni di ricerca e di sviluppo, anni di impegno nell'innovazione, e oggi questi super concentrati consentono il 44% in meno di packaging, il 41% in meno di plastica, il 63% in meno di acqua, e questo si traduce sostanzialmente in 1667 camion in meno sulle strade all'anno. Abbiamo lanciato per esempio un adesivo per il mondo delle calzature sportive che consente il 90% in meno di sostanze volatili rispetto ai prodotti adesivi tradizionali. E potrei fare tutta una serie di esempi di questo tipo. Quindi sostanzialmente per noi l'impegno è coniugare innovazione, capacità tecnologica per far sì di preservare il più possibile le risorse che abbiamo a disposizione. I vostri clienti se ne rendono conto? Allora, la sensibilità del consumatore è una grande sfida. I consumatori stanno cambiando, le ricerche di mercato che abbiamo a disposizione ci dicono che il numero di consumatori consapevoli e che pongono attenzione a questi aspetti, a questi valori, sono in aumento, stanno crescendo. Sicuramente si intravede un comportamento che premia le aziende che hanno atteggiamenti etici, atteggiamenti di sviluppo sostenibile, però i nostri clienti sono anche il mondo della distribuzione organizzata, della distribuzione moderna, e lì le grandi catene della distribuzione sono sempre più sensibili a queste tematiche, perché lì diciamo troviamo il luogo dove il consumo si esplica, no, nella sua forma più elevata, e quindi tutti i vari grandi marchi della distribuzione si stanno mobilitando e stanno chiedendo alle aziende che producono beni di consumo di raccontare, spiegare qual è il loro impegno. E poi noi siamo anche attivi nell'industria, quindi diciamo ci rivolgiamo a tutta una serie di aziende che operano per creare manufatti di vario genere, dal mondo dei trasporti, l'elettronica, prodotti per i mobili, eccetera, eccetera, con i nostri adesivi industriali. E anche qui vediamo che l'attenzione sta crescendo. Bene, grazie per questa puntata ad Ambra Notari. Grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora. Per riascoltarci c'è il sito internet www.radio24.it. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.